Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. In generale mi pare che la bellezza di Taormina e il significato simbolico di un G7 qui in Sicilia, in mezzo al Mediterraneo, di fronte all'Africa, abbia esercitato anche un ruolo positivo tra i leader, non solo perché c'è una atmosfera di discussione, come si dice, molto diretta e sincera, ma anche perché questa discussione si traduce in punti di convergenza. Insomma, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, come avete sentito dalle parole di Gentiloni al G7 di Taormina, anche la bellezza del posto, il sole e il mare pare abbiano favorito, diciamo, una certa convergenza su alcuni temi. Sembra che sia stata raggiunta un'intesa sulla lotta al terrorismo, forse qualcosa sui migranti, mentre per quanto riguarda il clima, a proposito dell'ambientazione dove è stato tenuto il G7 di Taormina, ancora resta una cosa sospesa, soprattutto per diciamo la contrarietà di Trump. Poi ci collegheremo con i nostri due inviati a Taormina per capire, insomma, che cosa sta producendo di concreto, se è stato proficuo questo G7 che ha la sua prima giornata. Ci occuperemo, come sempre, di tantissimi temi qui effetto notte, perché poi ci collegheremo anche con un inviato per sapere quali aggiornamenti ci sono da Manchester, visto che il capo della polizia di Manchester circa un'ora e mezza fa, due ore fa, ha parlato di immensi progressi nelle indagini, e lo speriamo. E poi la politica italiana, come può mancare, soprattutto con la battaglia sui voucher che sono usciti dalla porta e rientrati dalla finestra, e capiamo un po' che cosa succede all'interno della maggioranza e non solo. Poi c'è il meteo, come sempre, il venerdì, insomma un sacco di cose sulle quali potete scrivere come sempre i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte, oppure al numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666, 349-238-6666. Partiamo come sempre allora dai titoli, dal riassunto della giornata. Il G7 di Taormina, patto dei leader contro il terrorismo, intesa sui migranti, ma sul clima Gentiloni spiega che la questione rimane sospesa. Egitto, attacco a un bus di copti, 35 morti, tra i quali diversi bambini, uomini armati in azione hanno filmato il massacro. La strage di Manchester, il capo della polizia parla di immensi progressi nelle indagini. Rai, si dimette il direttore generale Campo Dall'Orto, oggi ricevuto dal ministro Padoan, entro 15 giorni il successore, si cerca una figura bipartisan. Tensione sui voucher, il capogruppo PD Rosato dice che i Dem non hanno intenzione di tendere trappole al governo su questo fronte, sono pronti a ritirare l'emendamento, in arrivo una nuova proposta e sulla legge elettorale Grillo apre al sistema tedesco. Uber vince contro i taxi, via libera dai giudici, esultano la app e i consumatori, protestano i tassisti. Addio Laura Biagiotti, la stilista era ricoverata in ospedale in fin di vita per un arresto cardiaco, domani a Roma i funerali. Ciclismo al Giro d'Italia, crisi per Dumoulin, Quintana ne approfitta e va in rosa, Nibali resta in scia. Partiamo quindi dal G7 di Taormina, il vertice dei principali leader mondiali. I sette hanno firmato una dichiarazione comune contro il terrorismo, ma come sottolinea il Presidente del Consiglio Gentiloni, resta sospesa la questione sull'accordo di Parigi relativa al clima, rispetto al quale il Presidente Trump ha in corso una riflessione di cui gli altri paesi hanno preso atto. Questa è la formula. Si lavora anche su un documento relativo ai migranti, sul quale, secondo fonti italiane, si starebbe raggiungendo un buon compromesso. Trump resta comunque osservato speciale dopo che lo Spiegel, giornale tedesco, ha riportato il suo giudizio sulla cattiveria tedesca per il surplus commerciale. Su di lui poi continuano a pesare le ombre del Russia o Russia Gate. Ivanka, cioè la figlia Ivanka e il marito Kushner, coinvolto nel dossier, sono già rientrati a Washington. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è rivolto a Taormina ai leader del G7 nel Brindisi prima della cena all'hotel Timeo a Taormina, ringraziandoli per la paziente ricerca di consenso sui temi cruciali. Sentiamo. Siamo nel tempo dell'urgenza, di una estrema urgenza, per affrontare le prove e le minacce che abbiamo di fronte a noi. Estrema urgenza che deve guidare l'azione dell'intera comunità internazionale nel fornire soluzioni concrete e sostenibili. Sono risposte ambiziose che dobbiamo, di fronte al terrorismo, che ancora una volta in questi giorni ha compiuto orribili stragi dal Regno Unito all'Egitto. E poi, come vi dicevo, tra poco ci colleghiamo con i nostri inviati a Taormina per capire quali sono effettivamente i risultati di questo summit. E da qui alla strage di Manchester, la polizia ha effettuato un nuovo arresto nell'ambito delle indagini sull'attentato suicida di lunedì che ha provocato, ve lo ricordo, 22 morti e decine di feriti. Al momento, dunque, sono 8 le persone finora arrestate, tra questi Ismail Abedi, 23 anni, fratello del kamikaze, cioè Salman Abedi, che secondo notizie di stampa si preparava da un anno all'attacco suicida. E in serata il capo della polizia di Manchester ha parlato di immensi progressi nelle indagini. Cercheremo di capire in cosa consistano. I servizi di sicurezza europei intanto sono in allerta e si preparano ad ulteriori attacchi durante il mese sacro del Ramadan, che inizia domani, dopo che l'ISIS ha lanciato un appello ai suoi seguaci a sollevarsi per una guerra totale per colpire gli infedeli in Europa, lo riporta il giornale britannico Il Telegraph. Restiamo all'estero, in Egitto, dove il terrorismo ha colpito ancora, come ci racconta Ugo Tramballi. Erano una decina di uomini, tutti armati e in divisa. Hanno avuto il tempo di organizzare un posto di blocco, di fermare i mezzi lungo la strada, verificarne gli occupanti. E quando hanno trovato l'obiettivo, un pullman carico di copti, hanno sparato a tutti, molti a bruciapelo, fra questi anche dei bambini. Hanno filmato la loro impresa e si sono dileguati dopo essersi disfatti delle divise. L'Egitto è grande, ma il luogo dell'eccidio non era un punto estremo del paese, piuttosto nel suo cuore abitato da milioni di persone lungo il Nilo che dà vita. Più di ogni altro considerazione sono le modalità dell'attentato che spiegano quanto poco il governo controlli il paese e quanto invece i terroristi islamisti godano di omertà e protezione se il loro obiettivo sono i quasi 10 milioni di cristiani che vivono circondati dai musulmani. Cittadini dello stesso paese, i copti si sentono i primi egiziani, più antichi, ma detestati dalla maggioranza, a volte sottilmente, altre palesemente. Un attentato dopo l'altro, i terroristi e i loro sostenitori hanno già raggiunto il loro obiettivo. Sono più di un milioni i copti fuggiti dall'Egitto. E il Papa, in un telegramma inviato dal Cardinal Parolin al presidente egiziano Al-Sisi, ha espresso la sua sincera solidarietà a tutte le persone colpite da questo, dice, violento oltraggio, in un modo particolare quei bambini, scrive il Papa, che hanno perso la vita. E c'è una svolta nella crisi della RAI. Erano attese, alla fine sono arrivate questo pomeriggio, le dimissioni del direttore generale della RAI, Campodall'Orto. Rai si volta pagina, Campodall'Orto esce di scena. A 4 giorni dalla bocciatura del suo piano news da parte del CDA, il direttore generale della Rai si dimette e lo comunica ufficialmente al ministro dell'economia Padoan durante un faccia a faccia durato circa 1 ora e mezzo. Un incontro che in un primo momento sembrava potesse slittare al dopo G7 di Taormina, ma che il ministro ha deciso di anticipare. Padoan a sua volta prende atto della decisione. Le dimissioni dovranno ora essere formalizzate in consiglio di amministrazione, ma si guarda già al possibile successore. Archiviata infatti l'ipotesi di un azzeramento del CDA, occorre trovare una figura che possa traghettare l'azienda fino a scadenza naturale del mandato, mentre Dall'Orto potrebbe restare al suo posto il tempo strettamente necessario per completare gli adempimenti urgenti. Tra i dossier più scottanti che restano sul tavolo, la regolamentazione dei compensi degli artisti, il contratto di servizio, il piano informazione, i palinsesti d'autunno. Dimissioni che però non bastano al presidente della commissione vigilanza RAI. Nessun inciucio, dice Roberto Fico. Si dimetta tutto il CDA, ora non credano di potersi lavare le mani. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E arriviamo alla politica. C'è tensione all'interno della maggioranza sui voucher, forti critiche da parte dell'opposizione e della CGIL. Un tema, quello della disciplina del lavoro occasionale, che continua a dividere le forze politiche. Cancellati con decreto i voucher, si punta con la manovra correttiva a colmare il vuoto normativo. La maggioranza propone un doppio binario, libretto famiglia e contratto occasionale nel caso delle imprese sotto i 5 dipendenti, con dei precisi paletti. Non si possono superare i 5.000 euro l'anno e 280 ore in capo a ciascun lavoratore. Oltre la soglia scatterebbe il tempo indeterminato. Il ricorso al lavoro occasionale sarebbe poi esteso anche alla pubblica amministrazione. Il testo definitivo dell'emendamento arriverà in serata e su quello ci sarà il sì del governo, assicura il ministro per i rapporti con il Parlamento Finocchiaro. Il governo sostiene con ogni convinzione l'ipotesi di una nuova regolazione del lavoro occasionale che verrà proposta dal relatore in commissione. Forti perplessità sui nuovi voucher per le imprese nello stesso PD nell'area orlandiana. No da MDP che abbandona i lavori della commissione. Forte contrarietà alla nuova formulazione anche dalla CGL CGIL, così la Camusso. Se si dovesse fare una scelta come quella che appare in queste ore di reintrodurli, non ricorreremo alla Corte Costituzionale. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi ci ritorniamo sulla battaglia dei voucher nel corso di Effetto Notte, anche sulla legge elettorale, perché Grillo, il leader del Movimento 5 Stelle, apre al sistema tedesco e avvia una consultazione degli iscritti sulla legge elettorale che propone il Movimento. Si voterà sulla piattaforma Rousseau domani e domenica dalle 11 alle 19. Il Tribunale di Roma accoglie il ricorso di Uber e sblocca il servizio Uber Black. Marcia indietro su Uber Black del Tribunale di Roma, che ha revocato la propria ordinanza del 7 aprile scorso con cui era stato disposto il blocco su tutto il territorio nazionale di questo servizio e l'oscuramento dell'omonima app. Il gruppo Uber, di cui il Tribunale ha accolto il reclamo respingendo il ricorso dei tassisti, potrà dunque continuare a operare in Italia con Uber Black, ma gli altri servizi denominati Uber Pop e Uber X continuano invece ad essere vietati, come stabilito dal Tribunale di Torino con sentenza del 22 marzo 2017. Sconcertati i tassisti. Il segretario di UGL, presidente dell'associazione Tutela Legale Taxi, Alessandro Genovese. Hanno vinto i poteri forti, ha vinto l'attività forte di lobbying che Uber ha messo in campo da un paio d'anni a questa parte, e la politica ha sposato questo progetto e gli ha disegnato una legge a suo favore. Soddisfatta invece l'azienda di rider sharing, che invita gli oltre 1000 autisti partner ad utilizzare di nuovo l'app e chiede di aggiornare la normativa che definisce datata. Ma i tassisti non si fermano. Per noi è un servizio abusivo e noi continueremo a batterci affinché la legalità torni a regnare nel nostro settore. Bisognerebbe avere arbitri meno di parte. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E una notizia di cronaca: a San Marino, una donna di 48 anni, dopo aver scoperto il cadavere del compagno suicida e aver chiamato forze dell'ordine e ambulanza, ha strappato dalla fondina la pistola di ordinanza di un militare della guardia di Rocca Sanremese e si è sparata al cuore. La donna non avrebbe retto alla scoperta del suicidio del marito impiccato in casa e, approfittando della distrazione di un militare, gli ha preso l'arma e si è uccisa. Addio Laura Biagiotti, la stilista era ricoverata in ospedale in fin di vita per un arresto cardiaco, avrebbe compiuto 74 anni ad agosto, domani a Roma i funerali. Ieri ne abbiamo fatto un ampio ritratto di questi 50 anni, splendidi 50 anni di carriera. Per chiudere lo sport, il calcio slitterà probabilmente a dopo la finale di Champions. La prossima udienza del processo sportivo a carico della Juventus e del presidente Andrea Agnelli. E per il Giro d'Italia, Nairo Quintana è la nuova maglia rosa del 100° Giro d'Italia di ciclismo. Dopo la tappa di oggi da San Candido, provincia di Bolzano, a Piancavallo, in provincia di Pordenone, lunga 191 km. Il colombiano, che aveva nella generale un distacco di 31 secondi, la sfilata a Tom Dumoulin, che è stato attaccato sulla salita che portava oggi al traguardo. E direi che con il ciclismo la giornata nei fatti principali è conclusa, esaurita, quindi comincerò dopo la viabilità, come sempre, con gli ospiti ad approfondire alcuni temi particolari. Voi continuate con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Già ci sono gli ipercritici sul G7 di Taormina, dice questo ascoltatore, un teatrino farsesco di un'inutilità sconfinata, uno spreco di denaro in un paese, il nostro, che conta ben più di 5 milioni di poveri. Comunque cercheremo di capire tra poco che cosa sta producendo questo summit. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti per aggiornarvi ogni sera, ricordatevi, a fine giornata con Effetto Notte, puntualmente dalle 21 alle 22, in modo che un giorno non potrete dire io non lo sapevo. A proposito di qualche notizia importante, ve le ricordo fra poco le principali di oggi, e adesso tra poco cominceremo con i primi ospiti per affrontare i vari temi. I vostri messaggi continuate a mandarli sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio, oppure i messaggi WhatsApp anche al 349-238-6666. Vedo messaggi sia su Taormina che sulla RAI, dice Elena. Con un referendum avevamo scelto per la privatizzazione della RAI, ergo che la vendano, a parte una rete pubblica di tipo culturale. Questo a proposito delle dimissioni di Campo Dall'Orto, di cui parleremo più tardi. Adesso, se non avete acceso puntualmente alle 21, vi dicevo, vi ricordo quali sono i fatti principali della giornata. Il G7 di Taormina, appunto, patto dei leader contro il terrorismo, una certa intesa sembra sui migranti, ma sul clima Gentiloni dice che la situazione rimane sospesa. Egitto, attacco a un bus di cristiani copti, 35 morti, tra i quali diversi bambini, degli uomini armati in azione hanno anche filmato il massacro. E poi la strage di Manchester, il capo della polizia parla di immensi progressi nelle indagini. Per quanto riguarda la RAI, le attese dimissioni, nel senso che erano nell'aria da tempo, del direttore generale Campo Dall'Orto, oggi si sono concretizzate, in 15 giorni dovrebbe arrivare un successore. E intanto, per quanto riguarda la politica, sulla legge elettorale Grillo apre al sistema tedesco. Uber vince contro i taxi, via libera dai giudici. E poi addio a Laura Biagiotti, la stilista era ricoverata in ospedale in fin di vita per un arresto cardiaco, e domani a Roma ci saranno i funerali. Ciclismo, il Giro d'Italia, crisi per Dumoulin, Quintana ne approfitta e va in rosa. E vedo adesso un aggiornamento per quanto riguarda l'Egitto. Vediamo, il presidente egiziano Al-Sisi ha assicurato che colpirà i campi di addestramento dei miliziani che hanno compiuto attacchi nel suo paese, ovunque essi siano. E quindi colleghiamoci subito con Taormina, dove appunto si è chiusa la prima giornata del G7, quindi del summit, del vertice tra i grandi della terra, come si dice, erano sette. Che cosa hanno prodotto in questa serata? Tra poco lo chiederò agli inviati, ma prima di tutto saluto Sergio Nava. Ciao Sergio. Ciao Roberta. Mi sembra che, ecco, la fortuna che posso parlare con te e con Betta Fiorito tra poco, perché non siete alla cena di gala, mi pare di capire, no? Al Belmont Grand Hotel. No, abbiamo chiesto, ma era già tutto esaurito. Ecco, quindi ho detto, voi rimanete fuori in modo che possiate fare informazione. Senti, a proposito del cena di gala e altre cose, insomma, le foto di famiglia che abbiamo visto oggi sui vari siti, no, dei leader, com'è Taormina in questi giorni? Perché c'è una parte blindata con i commercianti preoccupati e c'è una parte invece di turisti che ignorano che ci sia tutto questo bailame, no? Oggi ho avuto tra virgolette la fortuna di poter vedere Taormina, perché noi giornalisti siamo fisicamente confinati a Giardini Naxos, anzi in una frazione Giardini Naxos, quindi sulla costa, mentre Taormina chiaramente invece, quanto dista più o meno? Siamo sui 5-6 chilometri circa. E devo dire la cosa, sono quindi entrato nella zona rossa perché mi sono accreditato per la conferenza stampa di Theresa May, la premier britannica, e in realtà è stato un viaggio di 6 ore, perché siamo partiti alle 2:30 e siamo tornati alle 8:30 per 20 minuti di conferenza. Questo anche per dare un po' l'idea della logistica, quanto è complicata poi andare là molto prima, poi tornare anche molto dopo. E quella, la cosa più interessante è raccontare una Taormina che brulica di persone, cioè ci sono negozi aperti, quasi tutti i negozi sono aperti, ci sono moltissime persone tra forze di sicurezza, esercito, guardie di finanza, delegazioni, è una città molto viva, anche quasi un po' caotica in certi punti. Ogni vicoletto è presidiato da un militare, quindi tutti i vicoletti rispetto a Corso Umberto, la via centrale, sono tutti quanti presidiati. Però chi immagina una Taormina blindata, sì, lo è, perché effettivamente per entrare occorre fare il controllo di sicurezza su modello, diciamo, quelli degli aeroporti, però all'interno è una città molto più piena di gente rispetto a non dove siamo noi e dove mi trovo io ora, che è appunto questa frazione di Giardini Naxos, che invece è un po' più deserta. Li hanno confinati praticamente, Sergio. Praticamente, ormai la stampa vive un po' questa dimensione di emarginazione. Però avrei potuto cogliere i frutti di questa giornata, di questo vertice, no? Sentivo parlare di un'intesa sul terrorismo, di una quasi intesa sui migranti. Di cosa c'è? Allora, diciamo che l'intesa sul terrorismo è un po', tra virgolette, adesso non voglio diminuirla, però un po' la foglia di fico per poi coprire quello che quelle sono le divergenze più forti al momento, nel senso che sul terrorismo fortunatamente c'è unità, però è anche un'unità più semplice. L'interessante sulla questione terrorismo è che si pone sempre più l'accento sul reclutamento online, che quindi in qualche modo i sette dicono bisogna cominciare anche con i giganti del web a contrastare la radicalizzazione online. Theresa May in conferenza stampa non ha voluto poi veramente rispondere alla domanda se questo poi implica anche la decrittazione di determinati messaggi. Sappiamo che molte chat, molte comunicazioni sono criptate e qui i giganti del web dovrebbero un po' più dare una mano. Non è chiaro, però già un passo avanti. mentre invece sul clima è forse il punto. Scusa Sergio, ti interrompo sì. Un attimo, a parte appunto che in questi giorni era in corso poi questa polemica, questo rapporto difficile tra Stati Uniti e Gran Bretagna proprio per la fuga di notizie emerse sui media americani a proposito della strage di Manchester, no? C'era l'indignazione di Theresa May, però a proposito dell'intesa sul terrorismo, sentiamo che cosa ha detto Gentiloni. Oggi pomeriggio un segnale di grande impegno e di grande unità del G7, con la dichiarazione di Taormina contro il terrorismo e l'estremismo violento. Diversi punti di questa dichiarazione si riferiscono al rafforzamento della cooperazione tra le sette maggiori economie del mondo occidentale, del mondo libero, su diverse questioni, dalla collaborazione informativa all'impegno comune per promuovere da parte dei grandi internet service provider un impegno nei confronti di quello che circola nella rete e che molto spesso è l'anticamera o la eco o l'amplificazione di atti di terrorismo. Sergio, siccome stavi per arrivare al tema delicato del clima, sentiamo anche quest'altro passaggio di Gentiloni che si riferisce appunto alla situazione, al tema che rimane sospeso. C'è una questione che resta sospesa, che è la questione dell'atteggiamento sugli accordi di Parigi sul clima, rispetto ai quali la Presidente degli Stati Uniti, l'amministrazione americana hanno in corso una riflessione interna di cui gli altri paesi hanno preso atto, confermando il loro impegno totale per l'accordo di Parigi sul clima, che è un pezzo del nostro futuro e al quale siamo fiduciosi dopo questa riflessione interna vorranno partecipare anche gli Stati Uniti, che ovviamente svolgono un ruolo fondamentale. E che stanno facendo una riflessione, no? Sembrava dalle notizie. Forse anche la Merkel è stata un po' più esplicita. Gentiloni si conferma come sempre molto diplomatico. Anche la Merkel, la cancelliera tedesca, ha detto siamo 6-1. Insomma, è stata un po' più esplicita nel far capire che forse non. Anche la Merkel, tra l'altro, ricordiamo. Donna anche di carattere, sì. Ha un piccolo contenzioso aperto perché a quanto pare poi è trapelato oggi su Der Spiegel. Ieri Trump a Bruxelles, parlando con i vertici comunitari, avrebbe definito cattiva la Germania per le differenze, per il surplus commerciale. Lui ce l'ha un po' sul fatto che i tedeschi di fatto esportano più di quanto non importino. Poi oggi Juncker ha detto ha definito cattiva la Germania, ha detto che non va bene questa differenza, però noi abbiamo detto che in quanto europei sul commercio parliamo con una voce unica. Insomma, questo piccolo dettaglio tedesco fa capire poi in realtà quanto ci sia difficoltà ancora su un altro tema grosso, che è quello del libero scambio, per arrivare al secondo tema ancora in sospeso, potremmo dire, e sul quale bisognerà battagliare stanotte. Di Sherpa probabilmente stanotte saranno abbastanza impegnati a cercare di limare queste conclusioni. Si prevedono tra l'altro solo 6 pagine, quindi un comunicato insolitamente molto molto corto. Grazie Sergio Nava, adesso puoi andare se vuoi almeno ai cocktail dopo di fine serata. Anche Betta Fiorito, siete stati esonerati insomma dalla cena di gala, quindi possiamo parlare, dicevo Betta. Dice qualche ascoltatore, chiacchiere, lì è il bel tempo, i grandi da terra sono andati a farsi una bella vacanza, spese nostre, in realtà i padroni di casa, Mattarella e Gentiloni, hanno parlato di una certa convergenza sui temi principali, no Betta? Ma che da parte italiana ci sono 2 preoccupazioni. La prima è quella sul terrorismo, che abbiamo sentito la dichiarazione di Gentiloni e anche questa sera Mattarella ha posto il problema. Ci sono dei momenti, stiamo vivendo delle urgenze, questi terribili attacchi. E il secondo è quello che sta poi più a cuore all'Italia, perché l'Italia ha una posizione completamente diversa da quella degli altri paesi del G7, è quello dell'immigrazione. Qui si è raggiunto una sorta di compromesso che vuol dire tutto e non vuol dire niente, perché dice sì, c'è il diritto dei migranti e dei rifugiati di cercare appunto di andare via dai paesi che vivono situazioni di conflitti, ma c'è anche il diritto dei paesi di mettere dei limiti all'accoglienza, quindi vuol dire tutto e vuol dire niente. E anche però Mattarella è stato più incisivo di Gentiloni quando ha detto non possiamo non capire queste persone che fuggono per garantirsi la salvezza da guerre, epidemie, fame, conflitti. Quindi il problema rimane il fatto che il G7 fatto a Taormina, Gentiloni ha voluto sottolineare questa cosa, e davanti alla Libia, nella Sicilia, davanti alla Libia, sicuramente è un aspetto molto importante per l'Italia, perché, come dire ai grandi della terra, guardate che c'è solo un braccio di mare dalla Libia qui, da dove vengono quei famosi migranti che poi ci ritroviamo in casa tutti noi, perché ancora non c'è un accordo anche all'interno dell'Unione Europea, lo sappiamo, di spartizione vera e propria delle quote di migranti. E quindi c'è un contrasto tra quello che è la posizione italiana, quindi fare questo G7 in questa posizione così importante, no? Così di confine, e quello che sono i grandi della terra. Questo è. Poi nel frattempo io ti chiuderei invece con un aspetto molto bello, che è l'aspetto di questa cartolina Italia, cartolina Taormina, per cui abbiamo la prima foto che avviene dietro il palcoscenico, la Scenè del Teatro Greco di Costi Siracusa, poi c'è il concerto in serata sempre del Teatro Greco, della Filarmonica della Scala, e poi questa cena in questo hotel dove si vede l'Etna. Quindi una meraviglia. Le bellezze italiane. La bellezza italiana, e questa è stata una scelta che effettivamente poi è fatta dall'allora premier Matteo Renzi, è stata una scelta vincente. Un'ottima ambientazione, almeno d'immagine, poi capiremo almeno anche domani nella seconda però, giornata. Ecco, ricordiamoci che questa bellissima immagine poi dall'altra parte però arrivano i barconi. Questo sempre, c'è i sempre questo contrasto. È chiaro. Grazie Elisabetta Fiorito, buona continuazione allora lì a Taormina. Ciao. Grazie Betta. A voi. Ciao. Ciao a te, Sergio Nava. E adesso invece c'è, volevo accontentare questo ascoltatore che sta scrivendo, non avete dato notizia della sentenza a carico di 4 ragazzi di San Gineto che hanno ucciso il cane Angelo. Siccome è una storia che è finita effettivamente, rimbalzata su vari media nel corso dei mesi, la leggo questa notizia che viene da Cosenza, da Paola in provincia di Cosenza, in Calabria. Sono stati condannati a 1 anno e 4 mesi di reclusione ciascuno, il massimo della pena in base alla legislazione vigente in materia di maltrattamenti di animali, i 4 giovani che nel novembre scorso a San Gineto seviziarono fino a provocare la morte il cane Angelo. L'animale, secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, fu seviziato, torturato, impiccato a un albero per poi essere finito a colpi di pala. Insomma, quindi sono soddisfatti per questa battaglia e le associazioni impegnate contro i maltrattamenti e danni degli animali. Insomma, possiamo essere soddisfatti tutti, no? Nessuno, neanche il più piccolo, più remoto dalle nostre, diciamo, affetti, essere vivente può essere trattato in questo modo. Vedo degli aggiornamenti delle notizie, ve li do tra pochissimo. Intanto, per i vostri messaggi, continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666, che è il numero per SMS e WhatsApp. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. I vostri messaggi continuano sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire in qualsiasi momento, giorno e notte, senza indugio, oppure il numero per SMS e WhatsApp che è 349-238-6666. Dunque, abbiamo parlato del vertice dei grandi al G7 di Taormina, dei compromessi raggiunti per il momento, della questione clima che rimane la più delicata e quella in sospeso per il momento. Comunque questa è la prima giornata, non pare ci sia molta fiducia su risultati, diciamo, di dimensioni epocali, ma insomma sono i soliti piccoli passi. Intanto, tra i vostri messaggi, ringrazio un ascoltatore che non si firma, ha appena scritto un messaggio, e poi scusate se prendo un attimo per questo bambino di 12 anni, dice Omaro, 12 anni, ti chiedo un favore, siccome mio papà ascolta sempre Effetto Note, e fa benissimo, dice da quando ero piccolo, mi ricordo una volta mi ha dato una sbella perché ascoltava te, oggi fa il compleanno e ti fa... E ti chiedo di fargli gli auguri, si chiama Diop, gli faccio gli auguri, ti faccio gli auguri Diop, però capisco che è fondamentale ascoltare Effetto Notte in religioso silenzio in modo da non perdere neanche un secondo, però insomma mai mai tirare sberle né ai bambini né a nessuno, anche se ti perdi due parole di Effetto Notte, per carità, puoi recuperare. Infatti tra poco vi ricordo le notizie principali, se non avete acceso puntualmente alle 21, e poi cominciamo a parlare anche dei temi scottanti della politica italiana, ma andiamo con i titoli. Taormina, al G7, intesa sul terrorismo, distanze sul clima, compromesso sui migranti, polemica su Trump che ha parlato di tedeschi cattivi per il surplus commerciale. E poi svolta nella crisi Rai, Campo Dall'Orto, il direttore generale si dimette, lo comunica al ministro Padoan e adesso si cerca una figura bipartisan. Attacco a un autobus di copti, cristiani copti in Egitto, 35 morti, tra cui diversi bambini, degli uomini armati in azione hanno filmato il massacro. E alta tensione sui voucher per quanto riguarda la politica italiana. La leader della CGIL Camusso dice: siamo pronti anche al ricorso. Il testo dell'emendamento, della modifica, verrà presentato domani mattina. E poi un altro arresto a Manchester per la strage al concerto, l'attentatore si preparava da un anno, caccia ai complici. E poi addio a Laura Biagiotti, funerali domani a Roma della stilista. Saluto la nostra Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Cara Barbara, buonasera. Buonasera. Allora, i principali temi della politica italiana di questa settimana. Direi in primo piano la battaglia di voucher che è scoppiata soprattutto ieri sera. Poi la polemica sull'annullamento da parte del TAR di alcune nomine di direttori di supermusei, con Franceschini che ha annunciato ricorso, che ha parlato di figuraccia mondiale, ma del quale abbiamo parlato moltissimo già ieri. Gli ascoltatori hanno scritto un sacco di messaggi che neanche mi sarei aspettata su un argomento del genere. Poi le dimissioni oggi del direttore generale della RAI, Campo Dall'Orto. Da dove iniziamo, Barbara? Barbara, vogliamo capire, ecco, questa battaglia dei voucher, no? Allora ricordo agli ascoltatori che sono i buoni lavoro che erano nati con la riforma Biagi nel 2003, poi hanno avuto slancio nel 2008 e servivano per regolamentare il lavoro accessorio, vale dire le prestazioni occasionali, no? Non riconducibili a dei contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, per tutelare insomma i rapporti anche non regolamentati. Poi però che cosa è successo? Se ne è fatto un abuso, come spesso succede. La CGIL aveva promosso un referendum per abolirli, poi il governo, per disinnescare questo referendum, li aveva aboliti da sé. Ora però sembra che siano rientrati dalla finestra. In questo caso voucher è scoppiato ieri sera, rischiando di far saltare anche un po' gli equilibri della maggioranza, dopo l'annuncio del capogruppo del PD Rosato, che ha detto che nella manovra correttiva, la cosiddetta manovrina, sarebbe stato inserito un emendamento che ripristina il lavoro occasionale, appunto i voucher. C'è stata la reazione subito di MDP, la forza nata dalla scissione dal PD, e ora arriva una nuova proposta che viaggia, si dice, su un doppio binario, cioè un libretto famiglia e poi un contratto occasionale nel caso delle imprese sotto i 5 lavoratori. Ma la questione che sta creando polemica è soprattutto la possibilità di estendere questo strumento anche alle microaziende e alla pubblica amministrazione. Che dire, Barbara? Che ci risiamo e che MDP, cioè i bersaniani, come tu hai appunto detto, hanno detto già chiaramente che non voteranno i nuovi voucher. Devo dire, politicamente mi sembra una battaglia un po' di bandiera, nel senso che io non credo, sarò smentita probabilmente, non lo so, non credo a una crisi di governo, a una, come dire, sui voucher. Qualcuno pura. Addirittura, Barbara, qualcuno maliziosamente ha detto che è stata fatta apposta questa cosa per far cadere il governo Gentiloni, ti risulta? Allora, questa è una delle cose che vengono dette, però sinceramente, cioè, il punto è che MDP, i bersaniani si dovrebbero prendere la responsabilità di far cadere Gentiloni, però come sappiamo, anche come ha detto lo stesso D'Alema, loro non sono neanche ancora pronti per andare ad elezioni e quindi c'è da chiedersi se effettivamente vogliano portare fino in fondo questa battaglia, oppure se, come abbiamo visto in altre occasioni negli anni passati, non mi riferisco ovviamente a MDP anche perché non c'era ancora, assisteremo a come dire, a delle formule più leggere, ad esempio assenze strategiche al momento del voto di fiducia. Il problema si pone soprattutto al Senato, come al solito, anche se, aggiungo, rispetto ai voucher ha preso una posizione forte anche la minoranza del PD, guidata dal guardasigilli, dal ministro della giustizia Andrea Orlando, che ha detto se, se l'ipotesi viene avanti di reintrodurre i voucher, noi siamo pronti a non votarla. Soprattutto per quanto riguarda le imprese, no? Mi pare che dicesse Orlando. Sì, il problema è soprattutto questa. Sì, il problema riguarda soprattutto le imprese. Dopodiché, che cosa dobbiamo dire? C'è stato un abuso, è vero, in questo paese rispetto agli abusi la cosa che si sceglie è sempre quella di cancellare anziché come dire, verificare che gli abusi non si commettano, per cui il solito problema su è tanti un aspetti problema, sì, anche perché comunque è vero anche che ci sono dei lavori occasionali per cui il voucher aveva evitato il ricorso al lavoro nero e io non penso sinceramente, e questo lo sanno anche coloro che sono contrari ai voucher, che eliminando questo strumento quegli stessi lavoratori occasionali verranno poi assunti con un contratto di lavoro a tempo pieno o invece ricorreranno ancora una volta, ritorneranno nel nero e quindi saranno meno tutelati da questo punto di vista. Sì, bisogna trovare un compromesso che possa, diciamo, il compromesso dovrebbe essere sempre quello che se c'è una legge, la legge va rispettata, e se c'è un abuso, l'abuso va pesantemente punito, in modo che le aziende che rispettano i patti siano premiate da uno strumento di flessibilità e quelle che invece ne abusano, per l'appunto, siano punite. Chiaro, Barbara. Senti, anche un tuo brevissimo commento, una nota sulle dimissioni del direttore generale della RAI, che da tempo era accerchiato, mi sembra, no? Diciamo, sì. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la bocciatura del suo piano per l'informazione, per le news della RAI. Diciamo che erano dimissioni abbastanza annunciate e scontate, che la RAI come al solito rientra in un gioco politico, Campo dall'Orto arriva con l'imprimatur di Renzi, dopodiché come dire, perde la fiducia dell'ex premier e oggi si ritrova difeso da coloro che invece lo avevano additato come Movimento 5 Stelle, no? Dal Movimento 5 Stelle, quindi abbiamo assistito a un ribaltamento delle posizioni. Dopodiché è evidente che la partita sulla RAI si definirà più in là, cioè non è questo il momento e non è con le dimissioni di Campo dall'Orto che si risolverà la partita RAI, intendo proprio come equilibri. Certo è che se ci troviamo in un momento in cui si avvia una campagna elettorale, perché se è vero che si sta facendo un pressing per arrivare a un'intesa sulla legge elettorale tra Berlusconi, Renzi, ma oggi anche Grillo, la RAI diventa, essendo uno dei principali mass media, diventerà un elemento decisivo anche della campagna elettorale. Certo, dice un'ascoltatrice con il suo messaggio, dice: ma vi pare normale che un dirigente RAI rimetta le dimissioni al ministro del tesoro del governo? È normale? Beh, diciamo, è l'editore ufficiale, il ministro del tesoro della RAI, alla fine. Senti, hai citato il Movimento 5 Stelle, Barbara, e allora parliamo anche molto brevemente, ci rimane ancora un minuto e 20 secondi, di legge elettorale, perché Grillo apre al sistema tedesco e lancia sul suo blog un referendum tra gli iscritti, tra gli attivisti, no, per votare questo sistema. Ci dici proprio in due parole, in modo chiarissimo, Barbara, ti prego, perché ho sempre paura di un colpo di sonno da parte degli ascoltatori, non per colpa tua, per colpa mia, perché la questione, il tema legge elettorale è abbastanza pesante e intricato. Cos'è sto sistema tedesco, detto in due parole? Allora, è facilissimo, è un sistema proporzionale puro con uno sbarramento, cioè un partito per entrare in Parlamento deve avere almeno il 5% dei voti. Qual è la differenza rispetto, quindi c'è uno sbarramento che consentirà una maggiore premierà soprattutto i partiti maggiori, certo. E quindi eviterebbe un'eccessiva frammentazione qual è quella attuale. L'altra cosa del modello tedesco è che prevede un doppio voto, cioè gli italiani avranno due voti, uno su un collegio uninominale e l'altro su un listino proporzionale. Questo almeno è il voto in Germania. In Italia non si potrà fare proprio così, perché adesso è complicato spiegarlo ai nostri ascoltatori, perché in Germania il numero dei parlamentari è mobile, cioè dipende da quanto si vince nei collegi. Sì, qui invece probabilmente si dovrà stabilire una regola secondo cui comunque a prevalere sarà sempre la percentuale che il partito prende a livello proporzionale su base nazionale, cioè se su base nazionale io prendo il 20% ho il diritto al 20% dei seggi. Se anche ho vinto più collegi uninominali, prendiamo un partito ad esempio come la Lega che è molto forte in alcuni territori, se quei collegi sono di più della percentuale che quel partito ha preso a livello nazionale, gli verranno sottratti e distribuiti tra le altre forze politiche. Mm. Sono stata chiara? Sì, ma è sempre molto intricata la questione. Grazie. Buon grazie weekend. Barbara Fiammeri, buon fine settimana a te. Ciao cara Barbara, viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ve li ricordo adesso in pochi secondi, Roberta Giordano sempre con voi, abbiamo parlato del G7 di Taormina, chiude la prima giornata con un patto tra i leader contro il terrorismo, una certa intesa sui migranti, ma sul clima, come ha detto Gentiloni, la questione rimane sospesa. In Egitto c'è stato un attacco a un bus di cristiani copti, 35 morti, tra i quali diversi bambini, e gli uomini armati in azione che erano vestiti da militari hanno filmato anche il massacro. La strage di Manchester, ne parliamo tra pochissimo degli aggiornamenti. Per quanto riguarda la RAI, dicevamo poco fa delle dimissioni del direttore generale Campo Dall'Orto, entro 15 giorni il successore, si cerca una figura bipartisan o bipartisan. E poi la tensione sui voucher nella maggioranza, vediamo che quale sarà questa modifica che sarà presentata domani mattina. Intanto sulla legge elettorale Grillo apre al sistema tedesco, Uber vince contro i taxi, via libera dai giudici, addio Laura Biagiotti, la stilista era ricoverata in ospedale in fin di vita per un arresto cardiaco, domani a Roma i funerali. E per il ciclismo al Giro d'Italia Quintana va in rosa. Quindi, cosa arriva dalle novità, dagli aggiornamenti della strage di Manchester? Allora, la polizia della città britannica ha effettuato un nuovo arresto nell'ambito delle indagini sull'attentato suicida di lunedì, in cui sono morte 22 persone, ci sono decine di feriti. Al momento, dunque, sarebbero 8 le persone arrestate sino adesso, tra queste anche Ismail Abedi, 23 anni, che è fratello del kamikaze Salman Abedi. E nel tardo pomeriggio, con questo mi rivolgo a Marco Imarisio, che è inviato del Corriere della Sera. Buonasera Marco e grazie della disponibilità. Buonasera a voi. Marco, dice il capo dell'antiterrorismo britannico, sono stati compiuti nelle ultime ore immensi progressi nelle indagini. In cosa consisteranno questi immensi progressi? Fondamentalmente è stata delineata quella che potremmo definire, con bieca sintesi giornalistica, la rete che ha, all'interno della quale si è mosso l'attentatore della Manchester Arena. È fondamentalmente una rete composta. Basta guardare i nomi delle persone fermate o arrestate. Allora, padre qualcosa sapeva. Sicuramente il fratello maggiore di Abedi, l'attentatore, era informato da un mese dei suoi propositi e probabilmente lo ha aiutato. Sicuramente anche il fratello minore. Poi c'è una schiera di cugini, amici, conoscenti, cresciuti tutti tra il Fallowside e il Moss Side, questi due quartieri nel sud-est di Manchester, che rappresentano il 90% della comunità libica di Manchester. Mm. La caratteristica comune di tutti questi ragazzi, perché poi gli arresti hanno un'età media che va, hanno un'età che va dai 18 anni, il fratello minore dell'attentatore, fino ai 24 anni. C'è un arresto di una persona finora conosciuta che ha 38 anni, ma se no la media è il range è tra i 18 e i 24 anni. Molto giovane. Qual è la caratteristica? Qual è la caratteristica comune? Sono tutti figli di ex combattenti dei fronte islamico contro che si batté nel 2011 contro il regime di Gheddafi. E questa è una caratteristica molto particolare. Il gruppo dei combattenti islamici per la Libia, nel quale combatté Ramadan, papà del futuro attentatore della Manchester Arena, e gli altri padri di tutte queste persone delle quali stiamo parlando, era un gruppo che nel 2004 finì nella lista nera internazionale, cioè considerato vicino ad Al-Qaeda. Ora i figli hanno tradotto questo, forse improprio far ricadere le scelte dei padri sui figli, ma è chiaro che in Libia a opporsi a Gheddafi vi fu una cospicua parte di islamici radicali che, praticavano la jihad sotto la bandiera di Al-Qaeda. Ecco, i figli semplicemente hanno sposato un'altra bandiera nera, che è quella dell'ISIS. Fondamentalmente il legame è questo, la rete è stata abbastanza delineata, non è una rete che ha legami internazionali, può autorizzare soltanto qualche paragone con altre stragi. Ad esempio, qui stiamo parlando di un gruppo di amici che si è coperto a vicenda, mandando avanti probabilmente il più quello che è considerato dagli investigatori, dicono fosse un mulo. Il mulo. Questa è una bieca traduzione dall'inglese, cioè un mero esecutore. Ok? Ma ci sono delle similitudini col gruppo del Fran, un gruppo di amici nato e cresciuto nelle stesse strade, e su questo, isolati di distanza. E su questo, infatti, Marco, bisognerebbe riflettere anche sul fatto, appunto, abbiamo detto anche nei giorni scorsi, che erano noti alle forze dell'ordine. Marco, ora ci dobbiamo lasciare. Marco Imarisio, ti ringrazio, grazie, inviato del Corriere della Sera. Ciao e buon lavoro. Grazie. Ciao. Perché ora è tempo di sapere che tempo farà con il nostro Paolo Corazzon di Trebimeteo. Ormai l'estate è scoppiata, sì, diciamo, sì, Paolo. Sì, insomma, alla fine puoi essere contenta, tu come molti, per carità. E è estate no. A tutti gli effetti, sarà un weekend davvero estivo questo, bel tempo da nord a sud, si farà fatica a trovare qualche nuvola, ma soprattutto temperature davvero da piena estate. In particolare nord, Toscana, Lazio e Sardegna, punta anche di 31-32 gradi all'ombra, quindi figurati te al sole. Comunque anche dalle altre parti temperature davvero alte, ma ti dirò di più, anche settimana prossima bel tempo e quindi anche il ponte del 2 giugno dovrebbe avere condizioni estive in tutta Italia. Adesso andiamo avanti bene per un bel po', ecco qua. Fuori gli ombrelloni, grazie a Paolo Corazzon, buon tempo a te comunque buon sia. Buon tempo a tutti, ciao. Ciao Paolo, ci risentiamo brevemente alle 22.